Salve a tutti, da Bernardo Parrella dagli Stati Uniti, nel giorno di Natale, Christmas 2006, per una breve presentazione di Wired Magazine di gennaio 2007, numero arrivato agli abbonati qui negli Stati Uniti, ma ancora non disponibile per nulla online. Quindi una piccola chicca per quanti italiani si collegheranno. Faranno un giro online oggi, giorno di Natale, oppure nei prossimi giorni. Pur se onestamente il numero di gennaio non contiene molti articoli o materiali interessanti per il mondo digitale, in modo specifico, in quanto la copertina è dedicata alle migliorie del corpo umano, a come rendere il corpo super perfetto, Beyond the Body, con interviste, chiacchiere e consigli su come tenerlo in grande forma, anche il cervello ovviamente va tenuto in grande forma, tramite la bionica, la genetica, le sostanze legali, via di questo tipo. Altre cosette che ci interessano un po' meno, o almeno così mi sembra, è un articolo sul mistero degli Inca, un altro su come la NASA ha perso il primo video della discesa, no, della passeggiata degli uomini sulla Luna e un ampio inserto sulla Casa Verde del prossimo anno, Casa Verde contemporaneamente ipertecnologica. Invece un articolo che ci interessa, che mi interessa, spero interessi anche voi, è la rubrica di Lessig, il quale stavolta affronta il problema della banda larga negli Stati Uniti, ma anche della localizzazione della banda larga, ovvero che viene portata in varie zone locali o rurali o non coperte per vari motivi dalle grandi aziende tramite le municipalità locali che stanno cercando di offrire questi servizi gratuiti in varie zone, anche qui in New Mexico, in Sandoval County c'è un progetto, o in piccole situazioni gestite da gruppi locali. In questo senso Lessig dice: queste grassroots alternative di base riusciranno a sconfiggere il potere delle grandi aziende? Io rimango scettico, ma i grandi sforzi dei grandi provider di banda larga per persuadere gli stati, qui negli Stati Uniti, a impedire alle situazioni locali, alle municipalità di fornire accesso high speed, dovrebbe fornirci qualche indicazione sulle potenzialità di questi servizi. E quindi, spiega Lessig, può darsi che queste piccole situazioni decentrate alla fin fine possano influire positivamente rispetto alla nota questione della net neutrality, molto più di leggi, petizioni o di opposizioni giuridiche contro il quasi monopolio delle grandi aziende che stanno portando la banda larga negli Stati Uniti. Al pari, conclude Lessig, del processo antitrust contro Microsoft avviato 10 anni fa, delle disposizioni legali e sanzioni che hanno prodotto ben poco, mentre invece è riuscito molto di più a rintuzzare l'avanzata di Microsoft, l'emergere del sistema GNU/Linux con tutte le sue varie varianti. Quindi ancora una volta Lessig dice che forse è meglio affidarci, nonostante io sia un avvocato, meglio affidarci al potere della gente, della collettività e del mercato piuttosto che alle leggi per difendere la libertà online di comunicazione. Questa è un po' la speranza generale. Altre due pagine interessanti su Wired Magazine di gennaio è un grafico molto colorato in cui ci si presenta brevemente e succintamente le best geek cities degli Stati Uniti, ovvero le città dove c'è la migliore connessione e dove c'è il miglior pubblico e chiacchiere sul digitale e via di questo tipo. Ovviamente sulla West Coast e sulla East Coast troviamo sostanzialmente le città, dei posti più interessanti, cominciare da Seattle, dalla Bay Area di San Francisco, ovviamente, dove i nerds sono nel loro elemento naturale qui, Los Angeles e Austin, Texas, la cui unica caratteristica negativa è quella di essere circondata dal Texas. Saltando sulla East Coast, le città più geek sono Washington DC, Boston, New York City, dove il wifi è ovunque, e un po' più al centro, Pittsburgh, Raleigh-Durham, nota l'Università North Carolina, e Orlando in Florida. Piccola curiosità, invece un articolo interessante è quello che è il profilo di Jim Christie, il boss dell'unità anticrimine digitale del Pentagono, noto e anche temuto dagli hacker statunitensi sia per seguirne risolutamente le tracce, aver trovato vari sistemi e impiegato grande quantità di personale e tecnologie per beccare vari hacker che nel passato si sono introdotti nei sistemi governativi, sia perché è solito recarsi o far arrivare i suoi agenti agli vari eventi, alle convention degli hacker, famosa DEF CON di Las Vegas, arriva lì e si mette in contatto con chiunque fino ad cooptarli, fino ad assoldarli per lavorare proprio al servizio del governo. Quindi personaggio sui generis, interessante il profilo e il modo di fare ovviamente scanzonato e anche abbastanza aggressivo, oltre che offrendo vari dollaroni ai vari hacker che volessero lavorare per il governo. Ci sono varie cosette qua e là, ultimissime segnalazioni da Wired Magazine gennaio 2007, le possibili acquisizioni del web 2.0 nel prossimo anno, in prima linea Facebook, Dig, TechMeme, Wikipedia, Technorati, WordPress, FeedBurner, piccole aziende, piccole. Per così dire, nuove aziende del web 2.0 che sarebbero prossime all'acquisizione, un po' nello stile di YouTube acquisito da Google recentemente per 1,65 miliardi di dollari, se non ricordo male. E direi che ci fermiamo qui. Ci sono vari altri inserti con i soliti gadget e cose di questo tipo, ma tutto sommato, questa è l'anteprima di Wired Magazine di gennaio 2007. Offerta in esclusiva in italiano dal sottoscritto Bernardo Parrella, che vi augura di nuovo buon Natale, buone feste, a risentirci presto su queste onde. Bye bye.